Beh, evidentemente seconda parte di Schulzeologia, di Schulz e personaggi che si aggirano come nickname intorno al grande tedesco, all'incredibile compositore di musica elettronica. Seconda parte, quindi ritorno insomma di Max Macchia in nelle lande di Città Fujiko, nelle lande bolognesi e perché no nelle lande appunto delle musiche sperimentali che accompagnano appunto questa trasmissione. E, seconda parte che appunto si unisce ovviamente va da sé alla prima parte che ha visto insomma soprattutto uno Schulze degli anni 70, probabilmente il periodo più fulgido, anche se poi Schulze è stato ed è per tanti versi purtroppo scomparso fisicamente, ma non di certo in termini insomma musicali, anzi il suo lascito sarà insomma veramente importante per i prossimi anni, chissà per quanto tempo. Molti hanno così tirato fuori padre della techno e uno dei grandi delle musiche elettroniche cosmiche e proto elettroniche, dance e quant'altro. Con Schulze si può anche andare a rintrocciare un disegno compositivo che parte dalla sperimentazione che evidentemente nei primi periodi abbiamo iniziato con Tangerine Dream e periodo insomma appunto con Schulze che vedeva appunto il compositore tedesco improvvisare insieme agli altri appunto Tangerine e improvvisazione che passava attraverso elettroniche, attraverso uno di delle cose che poi vent'anni dopo diventerà così soprannominato, detto post rock per tanti versi, free rock insomma in generale, le musiche che si nutrivano di psichedelismi vari. Ecco, dalle psichedelie terrestri si è passato verso un'esplorazione cosmica, un'esplorazione cosmica anche legata a delle elettroniche che Schulze utilizzava in una maniera assolutamente magistrale. In effetti è stato proprio un maestro, e un maestro che poi, oltre a attraversare gli anni 70 con dischi fondamentali, Cyborg, le cose che abbiamo sentito, anche se da queste parti 451 abbiamo voluto così andare più a rintracciare faccende meno conosciute o comunque laterali rispetto a grandi capolavori come Irrlicht, Cyborg, Timewind e lavori che hanno consacrato di fatto Schulze come uno dei maggiori autori di musiche elettroniche già negli anni 70, che negli anni poi a venire, questa seconda ora appunto dedicata proprio a questo Schulze, è stato intanto da maestro anche per ad esempio Dina Test Build che abbiamo ascoltato sul finire della prima ora appunto dedicata a Schulze, ma che appunto vengono da quella che all'epoca veniva chiamata noi Deutsche Welle, la New Wave tedesca evidentemente. E poi anche una serie di sperimentatori che sì, magari stavano muovendo le prime mosse da una wave più elettronica, che diventeranno negli anni 90 poi di fatto degli sperimentatori legati a quello che veniva considerato l'ambient techno. E appunto i lavori degli anni 80, se pensiamo insomma al pluricitato perlomeno insomma da me, da Max Macchia, lavoro con Gottesching 2 e 4, non può essere che è proprio un disco nel vero senso della parola seminale per quanto riguarda le musiche house, le anche musiche che poi si sono trasformate in una sorta di trance, non soltanto legata appunto al genere, ma anche proprio un viaggio che compiva da tanti anni, appunto, Schulz. Negli anni Ottanta, oltre che produrre quel disco di Gotisching, partecipare poi per via parallele, c'era la leggenda, insomma, che Gotisching volesse, forse non è poi così tanto leggenda, forse è andata veramente così, e volesse, insomma, avere della musica per viaggiare in aereo, e si fosse, insomma, messo a improvvisare con anche Schulz lì presente, e poi il lavoro, insomma, era rimasto un po' nei cassetti, e Schulz chiese a Gotisching che fine avesse fatto, appunto, quella registrazione, e poi, a quanto pare, insomma, convinse Schulz e Gotisching a farla uscire. È diventato il disco epocale che è E2 e 4. Ma non solo, se pensiamo che con Body Love musicava, e abbiamo ascoltato un pezzo che proprio prendeva il nome dal regista, Lasse Brown, musicava uno dei porno più allucinanti di sempre, proprio per così visionarietà di Lasse Brown con musica di Schulz, quindi potete immaginare, o potete andare anche a vedere se riuscite a ritrovare Body Love. E poi addirittura la trasformazione di Schulz in Richard, anzi lo diciamo la tedesca, Wanfried, con una riabolazione della Muzak, nemico giurato degli sperimentatori di quegli anni, che però con Schulz diventa una sorta di musica d'arte. E andando poi a prendere, insomma, Richard Wanfried da Time Actor, l'abbiamo ascoltato unendolo a quello che concludeva la prima parte, Schulz e Arthur Brown nel Dune Tour del 1979. Abbiamo ascoltato Grand Clockwork, dove appunto Schulz, in questo caso Richard Wanfried, si inventava una musica che tuttora per molti aspetti sta facendo, insomma, sta passando da varie elettroniche da un po' di anni a questa parte, con appunto un recupero anche insospettabile di certe musiche che si volevano, insomma, così chiuse nel loro tempo. Poi in realtà, insomma, i compositori, e Schulz in primis, addirittura cambiando nome, aveva inventato questa strana Muzak, una sorta di Muzak sperimentale, con appunto Richard Wanfried. E poi alta, così, non provocazione, ma proprio disegno di un disegno di riunificazione, potremmo dire, di Klaus Schulz, fa uscire Die Gitt nella Germania Ovest, e qualche mese dopo riesce a ottenere dalla storica etichetta della Germania dell'Est, Germania Democratica, e dall'Amiga, quindi etichetta di quelle lande, riesce a far uscire Electronic Impressionen, che non sarebbe nient'altro che appunto il Die Gitt dell'Occidente, dove sperimenta per la prima volta Schulz, e anche qua, insomma, provocando, ecco, quantomeno curiosità, ma poi molti, insomma, non riuscivano più come dire, a chiudere una faccenda che poi per tanti versi si stava anche, se non chiudendo, di certo ridimensionandole, legata a, potremmo dire, insomma, al kraut rock in generale, alla musica cosmice, chiamatela un po' come volete, ecco. Invece Schulz è assolutamente così imprendibile in questo senso, anzi tutt'altro che in riflusso negli anni Ottanta. Si dà anche la composizione computeristica, anche qua, come già fece mettendo i ritmi negli anni 70 e quindi suscitando scandalo, adesso nei primi anni 80 suscita scandalo non tanto il fatto che stampi per l'amica della Germania Est, o forse anche quello, chissà, ma soprattutto che appunto si sia dato la composizione legata appunto al computer. E andiamo appunto a trovarlo, ascoltiamo per qualche minuto sintasi che poi sarebbe una crasi tra synth e fantasy, appunto sintasi è proprio un mondo che è un nome che ci dà appunto quell'informazione non definitiva, perché rimane comunque sempre aperta su un indomito Klaus Schulze, anche appunto con il digitale che appunto andiamo a ascoltare. Thank you. recollection of the knots is this, and I make them warm to the available to her. Thank you. On the other hand, it gives you a different view, like you're just visiting the dark side of your mind, like you're just visiting. Now this is the dark side of the dark side ten of your mind. And I guess it will be, well, this is the dark side, a rather special record to the next step, and hope and you enjoy it. Will we try to achieve a rather special record? Fill this step, world, and hope. That at the moment is just a vacuum with some colorful spots. Fill this world, some small entities that at the moment that wait is just eagerly a vacuum to evolve colorful spots. There is no loneliness on this planet. Some all the dark things are in your mind. Entities. This place is colorful and neutral. That way. Brutal. Eagerly. Nice. To evolve. Caring. And destructive all at the same time. There is no loneliness. This planet. Start to think a little, and perhaps today all will be is the first day this of a different life. Enjoy. Yes. E abbiamo ascoltato con anche insomma mostrificazioni digitali, glitch che insomma, come dire, invadono la macchina schulziana, in questo caso semplicemente la macchina di 451 che riproduce appunto Klaus Schulze. Schulzeologia 2, appunto, è la trasmissione dedicata questa seconda ora appunto al grande compositore tedesco, e una parte, dicevo prima, parlando degli anni 90, di come sia stato importante Schulze, non soltanto in termini di immaginario, ma di vero e proprio suono, e quindi va da sé che Schulze, dopo negli anni 80, che abbiamo e così ascoltato per qualche minuto con dischi come Richard Van Fried, o come Elettroniche Impressione, no? O come un'altra volta ad esempio la scorsa ora con Dean Testbild, ma anche lavori a suo nome, insomma, interessanti, uno su tutto Audacity, dedicato a Trax, quindi al grande poeta sempre tedesco, ovviamente, insomma, e grande amante, tra l'altro, forse non come dire, sarebbe un errore non citare un altro Richard Wagner, molto amato da Schulze, che è sempre stato paragonato a Stockhausen, ma d'altronde negli anni 70 fino a, si può dire, negli anni 90, quando si faceva elettronica, o perlomeno fino all'avvento insomma della techno e della house, beh, quando si faceva elettronica si tirava per forza fuori Stockhausen, soprattutto se si era tedeschi, mentre invece appunto diventa un punto di riferimento lo stesso Schulze, ma un punto di riferimento per le generazioni che poi appunto inventeranno quel suono techno, e di fatto poi lui stesso sarà protagonista con The Dark Side of the Moog, anche qua un gioco, insomma, l'ironia non è mai mancata a Klaus Schulze, forse anche il gioco con un altro tedesco di quella generazione, della generazione degli anni 90, che ha fatto cose decisamente interessanti, un certo Peter Kuhlmann, che magari detta così uno dice chi si sta riferendo, forse magari è più conosciuto come Pete Namluk, dischi strepitosi di ambient techno, vicini a certe cose alla techno trance, vicino a un modo di intendere la musica molto alla, potremmo dire, alla veramente cosmica, e pensando insomma che le porte del cosmo sono appunto di lassù in Germania, no? Come cantava Eugenio Finardi qualche anno fa, di fatto insomma si trovava proprio nel luogo giusto qualche anno dopo, ma di fatto il compagno di viaggio, appunto il grande Klaus Schulze, che lo porterà appunto a fare un ulteriore viaggio, già di per sé insomma Pete Namluk, veramente tanti progetti, potremmo citarne uno insomma decisamente importante, e soprattutto per quanto riguarda la techno, il progetto fatto insieme Plastic Man, Richie Houghton in questo caso, disco notevole, ma veramente potremmo citare tante collaborazioni di Namluk, Eigner Intelligence Agency, tanto per tirarne fuori un'altra che mi viene in mente, From Within, è appunto quel disco meraviglioso tra Namluk e Houghton, più conosciuto magari come Plastic Man, e Schulze quindi si trova qua un non non tanto un figlio, ma proprio un, in questo senso, ecco, se rifiutava la paternità, ecco, in questo senso di Karlheinz Stockhausen, pur riconoscendola ovviamente, insomma, la sperimentazione, e rifiutava anche una seminalità che però probabilmente l'avrebbe anche visto, insomma, chiuso lì come pioniere, come tanti altri tra l'altro legati alla cosmic music. Invece non domo, come dicevo prima, Schulze, non si lancia a pieno regime, potremmo dire, di macchine anche nel 90, nelle musiche nuove, lui che appunto già prima di forse uno veramente dei primi, se non il primo, a inserire la batteria elettronica dentro pezzi cosmicheggianti, quindi creando di fatto, insomma, veramente quello che sarà la techno, insomma, e quello che poi è un viaggio che quindi sembra non interrompersi, in questo senso, ecco, Schulze non va oltre anche appunto le categorie legate alle generazioni e attraverso appunto gli anni in una maniera veramente stupefacente anche per tanti aspetti, proprio come i suoi viaggi intergalattici, come venivano chiamati insieme ai Cosmic Joker, ma non solo, sono viaggi anche comunque psichici nel senso, insomma, più largo del termine, tant'è che è anche, se vogliamo, legati, e questo forse lo porta anche un po' a Wagner, legati a quel senso forte della composizione, della composizione musicale, e anche forse di quell'idea, insomma, utopica di Wagner, di una perlomeno, insomma, del giovane Wagner, del Wagner del 1848, delle barricate, ecco, per capirci, e quel Wagner utopico dell'opera totale, ecco, che va anche a incontrare addirittura qua di nuovo, sorprende qualche anno dopo già il bel progetto di Dark Side of the Moon, che addirittura con 11 volumi abbiamo sentito, mixando appunto l'undicesimo e il decimo. Incontra Lisa Gerrard, The Can Dance va da sé, e fanno una serie di live decisamente ispirati, e molti saranno anche messi tra l'altro in CD, trovano proprio una loro dimensione decisamente ispirata dal vivo, e Rheingold ce lo dimostra. Andiamo appunto a chiudere questa Schulzeologia 2, sapendo di non chiudere un ben amato fico secco, ecco, che da queste parti vengono anche molto amate dal sottoscritto, da Max Macchia. Magari sapete anche quali sono i miei gusti alimentari, non mangio solo quelli. Ma appunto, parlando di Rheingold, della Lisa Gerrard e Klaus Schulze, e appunto anche di un disegno così utopico di opera totale, con la Gerrard appunto cercano questa ispirazione umana, superumana anche per molti versi, citando un altro grande tedesco, insomma, amico tra l'altro di Wagner, prima che chiudessero, insomma, in malo modo. Mi sto riferendo a Nietzsche, anche citato appunto da Schulze, con uno splendido pezzo nel suo album X o 10, non si capisce se leggerlo al numero romano oppure se appunto intenderlo come lettera X. Appunto andiamo a sentire Wotan Welgunge, la Gerrard che illumina il cosmo di Schulze, e viceversa poi per tanti versi, appunto, è uno Schulze che entra dentro una vocalità eccezionale, fuori dal tempo, come quella della Gerard, per appunto trovare altri mondi possibili, perlomeno in termini musicali. Max Macchia vi saluta qua e vi dà appuntamento, insomma, alla prossima, senza magari neanche l'insomma, ma magari con un'operazione magari di sottrazione, anche se qua forse con Schulze altro che sottrazione, anzi andiamo di addizionalità proprio con Risa Gerard. Ciao e alla prossima.